Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Un buon sabato, una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Alice Cosilli, Laura Faggini in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete commentare anche questa puntata scrivendo una mail a nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666. Poi siamo su Facebook, il profilo è nessunluogolontano-radio24 e su Twitter nessunluogo24. E vi ricordo anche che sul sito di Radio 24 troverete contenuti extra riguardanti anche questa puntata. Andate su radio24.it e cercate il blog di Nessun luogo è lontano. Puntata speciale questa sera e il tema è... Il tema è una lacuna dell'informazione. In generale l'attualità internazionale viene poco raccontata. Altre volte non si dà agli ascoltatori gli strumenti, ai lettori, gli strumenti per poter leggere l'attualità internazionale. In quanti titoli, in quanti servizi televisivi avete sentito formazione sunnita, setta sciita, scontri fra sunniti e sciiti? Ebbene, questa sera la puntata speciale di Nessun luogo lontano cercherà di colmare questa lacuna e lo farà a modo suo, partendo dall'attualità e anche dal terreno e allargando l'analisi a quelli che sono i grandi temi. E per aiutarci in questa analisi, allora do intanto il mio benvenuto alla professoressa Anna Van Zan. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Professoressa Van Zan, docente di cultura araba all'Università degli Studi di Milano. Il tema che affrontiamo questa sera, professoressa, è estremamente vasto, per cui forse conviene partire da due casi di attualità, due casi sul terreno. C'è un'area geografica, e in particolare uno stato, che è quello del Bahrain, che è conosciuto e assai noto perché il circo della Formula 1 vi fa correre delle gare automobilistiche ogni anno. Quello che forse è un po' meno noto è il braccio di ferro, che ormai da anni, da quando poi è iniziata la cosiddetta primavera araba, è in atto tra sunniti e sciiti. Che cosa sta accadendo in Bahrain? Che cosa accade, professoressa? In realtà sono due anni che in Bahrain la popolazione, che è di maggioranza sciita, però vorrei dire che questa connotazione più politica che religiosa in questo caso, combatte contro la dinastia che è sul trono del Bahrain dal 1869, posta lì tra l'altro dai britannici, gli Al-Khalifa. Gli Al-Khalifa stanno tentando in tutto e per tutto di contrastare questa montante marea di opposizione che, ripeto, di colorazione è sciita, ma a cui partecipano molti cittadini sunniti, anche loro discriminati per vari motivi dalla dinastia imperante. E in Bahrain si sta consumando questa sorta di pulizia etnica, per così dire, anche con l'aiuto delle truppe saudite. L'Arabia Saudita, infatti, che ha proclamato una sorta di guerra contro gli sciiti negli ultimi decadi, ha mandato un nutrito contingente di soldati per ammazzare la gente in piazza sostanzialmente. La dinastia del Khalifa ha fatto radere al suolo molte moschee degli sciiti e sta appunto tentando di far passare la sua operazione come una difesa contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo infatti del Khalifa, gli sciiti bahrainiti sarebbero in qualche modo foraggiati e sobillati dall'Iran, che vorrebbe estendere il proprio dominio anche sul piccolo ma ricchissimo stato del Bahrain. Ecco, in generale, iniziamo a entrare nel dettaglio del tema di questa puntata. Che cosa distingue le due correnti, sunniti e sciiti? E poi così cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo in questo piccolo e ricco stato. Innanzitutto la divisione fra sunniti e sciiti è una divisione proprio dall'incipit dell'Islam, quando il profeta Muhammad morì nel 632, si impose la decisione su chi dovesse prendere le redini della nuova comunità. Da una parte si sono schierati coloro i quali pensavano di essere gli eredi e comunque di dover decidere la leadership per via elettiva all'interno di un ristrettissimo gruppo di notabili, un consiglio oligarchico di saggi. Dall'altra parte invece si sono posti i familiari del profeta Muhammad, in particolare suo cugino e nonché suo genero in quanto marito dell'unica figlia del profeta Fatima, contestando questa procedura e adducendo molte, come dire, giustificazioni, molti discorsi del profeta secondo i quali appunto il profeta stesso avrebbe voluto che la leadership rimanesse all'interno della sua famiglia. Questo ovviamente ha creato una grandissima fattura. I sunniti a questo punto si sono definiti coloro che si consideravano gli unici veri seguaci della Sunna, la tradizione, ovvero l'esempio di insegnamento del profeta. Dall'altra parte invece i contestatori, appunto la famiglia del profeta, Ahl al-Bayt, che poi hanno preso il nome di sciiti da Shia fazione. Ovviamente il discorso è divenuto subito squisitamente politico perché ci sono state delle vere e proprie battaglie fra il partito degli Alidi, perché appunto il capostipite di questa fazione era Ali ibn Abu Talib, il parente del profeta, e dall'altra appunto i sunniti. Nel corso dei secoli queste battaglie sono state a volte molto cruente ma molto contenute, dovuto anche al fatto che i sunniti poi hanno rappresentato sempre la stragrande maggioranza del mondo musulmano e gli sciiti invece hanno sviluppato al loro interno una serie anche di rituali per celebrare la loro minoranza, ma anche il fatto di sentirsi loro i giusti, ma come dire, combattuti da parte degli iniqui, cioè dai sunniti. Sì. Professoressa, ascoltiamo insieme quella che è la distribuzione, cioè andiamo sui numeri, quanti sunniti e quanti sciiti ci sono nel mondo e in che paesi? L'Islam è la seconda religione più diffusa al mondo e ad oggi conta circa 1,3 miliardi di musulmani nel mondo. I sunniti raggiungono il 1.152 milioni, mentre gli sciiti i 170 milioni. Gli sciiti, ovvero la minoranza, sono il 10-15% del totale e vivono soprattutto nelle zone del Golfo Persico. Gli sciiti sono presenti in Libano, sono i 2/5 della popolazione, in Siria, in Iraq, stanziati nella regione che corrisponde all'antica Mesopotamia, in Arabia Saudita, dove sono circa il 15% della popolazione. In Bahrain, invece, raggiungono il 50-70%, in Turchia il 20%, e sono divisi fra imamiti, ismailiti, zaiditi e alawiti. Una percentuale simile si trova in Pakistan, mentre in Afghanistan gli sciiti sono cittadini di Herat e Hazara. Infine, in Iran, oltre il 90% della popolazione è sciita. Professoressa Van Zan, il fatto che gli sciiti in generale sono una minoranza e dal punto di vista storico, come dire, c'è una persecuzione storica, che dinamiche economiche o sociali riflette? Cioè, possiamo attribuire delle etichette a sunniti e sciiti dal punto di vista delle classi sociali? Che ne so, i sunniti sono normalmente l'alta borghesia o viceversa? È possibile inquadrarli da questo punto di vista o sono comunque trasversali queste due correnti? Qualche zona geografica assolutamente sì, pensiamo per esempio al subcontinente indiano, in Pakistan ma anche in India gli sciiti generalmente sono la parte più povera della popolazione, lo vediamo dalle tabelle dello sviluppo per esempio, proprio perché c'è stato fin dall'inizio un tentativo appunto di pulizia etnica, di vero e proprio genocidio, mi riferisco per esempio agli Hazara, questa popolazione afgano-pakistana che dal 1500 è come dire, oggetto degli attacchi sia dei governi ma e adesso recentemente, come gli ascoltatori avranno visto, di veri e propri attacchi da parte di gruppi estremisti sunniti che intendono appunto eliminarli proprio dal paese. Però dobbiamo anche ricordare che in realtà nella grande famiglia degli sciiti ci sono varie correnti, questo è tipico un po' dello sciismo che si è progressivamente nel corso della storia frantumato al suo interno e all'interno però noi abbiamo la corrente maggioritaria che è quella degli sciiti decimani, cioè che seguono una catena di 12 imam, quella per esempio che fare appunto il caso più eclatante e dominante in Iran, ma sì. All'interno per esempio abbiamo anche la grande famiglia degli ismailiti. Fra gli ismailiti invece ci sono anche delle situazioni di grande ricchezza, a parte ovviamente l'Aga Khan che è famoso nelle cronache mondane di tutto il mondo, però per esempio se noi guardiamo in Pakistan le zone ismailite sono quelle più ricche proprio in termini per esempio di investimenti nell'istruzione, gli ismailiti costruiscono moltissime scuole, sono a favore dell'istruzione istruzione, da sempre a favore dell'istruzione femminile. Ovviamente, appunto, siccome questo riflettono gli alti e bassi della politica in Iraq fino all'epoca della caduta di Saddam Hussein, gli sciiti, pur essendo maggioritari, oltre il 65%, sì, erano comunque generalmente la fascia più povera della popolazione. Con la caduta di Saddam Hussein, l'instaurarsi del governo sciita nel 2005, la situazione ovviamente si è ribaltata. Lei citava inizio trasmissione la ritualità che nel formare, no, questo immaginario sciita, non solo c'è il cosiddetto Muharram, ma c'è una forma di teatro estremamente importante. Le differenze, diciamo, teologiche sono piuttosto minime e si sono anche appianate nel corso dei secoli. Rimangono alcune differenziazioni nel diritto, nella giurisprudenza, alcune ovviamente differenziazioni negli hadith, cioè nella catena di detti e fatti attribuiti al profeta, e nella concezione, diciamo, più importante della figura dell'imam presso gli sciiti che non presso i sunniti. Tra i sunniti l'imam è semplicemente colui che guida la preghiera all'interno di una moschea, l'imam invece sciita è la guida non solo religiosa ma soprattutto la guida temporale, secondo alcune correnti più, sì, più estreme. E quindi non tanto, diciamo, il discorso teologico, quando nei secoli si è sviluppata una differenza rituale. Noi tra l'altro adesso possiamo distinguere un sunnita da uno sciita se fanno assieme la preghiera, dal modo in cui si lavano, le abluzioni sono leggermente diverse, dal fatto per esempio che nel mese del digiuno, nel Ramadan, gli sciiti hanno una concezione un pochino più come dire restrittiva, quindi interrompono il digiuno giornaliero dopo il calare del sole, quindi qualche minuto in più rispetto, sì, ai sunniti. E poi, appunto, come accennava lei, ci sono tutti questi rituali interessantissimi che si svolgono per lo più nel mese di Muharram, cioè nel primo mese del calendario lunare islamico, e che caratterizzano proprio la presenza sciita. Sì, fra l'altro queste processioni in cui, no, sì, c'è questa autoflagellazione, come dire, non passano inosservate, perché no, assolutamente, anche assolutamente, perché nei primi secoli sono nate come delle manifestazioni di protesta, cioè la gente, gli sciiti per esempio, serravano il bazar, la serata del bazar, del mercato, che è il fulcro della vita economica di un paese musulmano, e vuol dire appunto un atto di protesta contro il regime molto, molto pronunciato. Nell'Iran pre-Khomeini, nell'Iran pre-rivoluzionario, sono servite per coagulare la protesta contro lo Shah. Professoressa, la interrompo perché dobbiamo fare una piccola pausa, ma sulle connessioni tra religione e politica nel mondo islamico torniamo nella seconda parte di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Le due grandi correnti dell'Islam, sunniti e sciiti, al centro della puntata di questa sera di Nessun Luogo Lontano. Siamo con la professoressa Anna Van Zan, con la quale stiamo entrando nel cuore della puntata, cioè la domanda chiave a cui cercheremo di dare una risposta è quanto la lente religiosa ci consente di comprendere i grandi avvenimenti che accadono nel mondo arabo, nel mondo musulmano. E quindi, professoressa, in ultima istanza la domanda è questa: è quanto gli scontri fra sunniti e sciiti, abbiamo parlato del Bahrain, abbiamo parlato di Pakistan, di Afghanistan, di India, nascondono invece motivazioni economiche o sociali? Innanzitutto adesso c'è una sorta di resurrezione, per così dire, dei partiti sunniti, soprattutto nell'area del Golfo, cioè le monarchie saudita, i vari Emirati Arabi, il Qatar, si stanno un po' coalizzando contro il mondo sciita perché ne hanno paura, per cui in pratica hanno cominciato a, come dire, a coalizzarsi per eliminare questa paura, perché gli sciiti hanno anche, se vogliamo, la caratteristica di essere sempre estremamente battaglieri, di nascondere dietro le loro manifestazioni religiose la protesta politica, e sono in ultima analisi dei veri e propri motori di sollevazione e di cambiamento. Quindi le monarchie del Golfo, appunto impaurite da questa idea, hanno cominciato per esempio a finanziare la rivolta anti-alawita contro il regime di Assad in Siria, proprio perché hanno paura appunto di questa sorta di spauracchio del mondo sciita che si sta coalizzando in qualche modo contro di loro. La paura dello sciismo ha cominciato più o meno negli anni 70, fine anni 70, con il successo della rivoluzione islamica di matrice però sciita in Iran. Lo stabilire il principio da parte dell'Ayatollah Khomeini del velayat-e faqih, cioè del governo del giureconsulto, ha appunto spaventato tutte, non solo le monarchie, ma tutti gli stati sunniti, spaventati appunto dal fatto che le minoranze sciite o maggioranze, come nel caso dell'Iraq, sciite dal loro paese, potessero proporre un simile modello. Quindi è, diciamo, in questi ultimi 30-35 anni la lotta contro gli sciiti è diventata molto più mirata e anche molto più manipolata. In realtà i sunniti, la propaganda sunnita, foraggiata soprattutto da Arabia Saudita ma dagli stati del Golfo, che sono, sappiamo, molto ricchi, tenta di far passare gli sciiti come i facinorosi, come quelli appunto che vogliono sollevare la popolazione contro contro i vari regnanti, contro i vari governanti, e insomma farli passare in ultima analisi come appunto dei destabilizzatori, cosa che in parte è vero, ma appunto dobbiamo pensare che questi protestano in realtà perché sono molto spesso tenuti sotto il giogo di governi che sono assolutamente punitivi nei loro confronti. In Bahrain gli sciiti per esempio sono discriminati nel luogo di lavoro, il percorso di uno sciita per arrivare a una carica pubblica, a un lavoro statale, è praticamente un percorso d'ostacoli impossibile. L'idea è proprio, come dire, di lasciarli fuori da qualsiasi soluzione. Parliamo di una vera e propria opera di pulizia etnica che passa appunto sotto la manipolazione generale di voler invece eliminare l'espansione del regime iraniano. Ecco, professoressa, stia con noi perché adesso ci spostiamo a Beirut, dove c'è Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA, analista per l'IMES. Lorenzo, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve, grazie. Lorenzo, allora ti chiediamo lumi per capire quanto, dal tuo punto di vista assolutamente privilegiato, non solo sul Libano ma anche sulla Siria, questi connotati che stiamo tratteggiando questa sera, questo scontro, questo braccio di ferro decennale tra sunniti e sciiti, ci aiuti a capire quello che sta accadendo in Siria, dove il regime di Assad ormai, come dire, le crepe non si contano più. Quanto, Lorenzo, quel conflitto è spiegabile attraverso la lente religiosa? Ma nella storia siriana, nella storia moderna, contemporanea siriana, le tensioni a sfondo confessionale emergono con l'arrivo dei francesi, quindi circa un secolo fa. Poi, appunto, in tutto questo arco di secolo, prima i francesi, poi lo stesso regime di Hafez al-Assad e poi quello del figlio Bashar, hanno dietro le quinte cercato di usare le divisioni confessionali per semplicemente per governare meglio, perché appunto nel classico dei principi del divide et impera, dividere la società, prima bisognava dividere il fronte nazionalista anticoloniale, poi bisognava dividere il fronte del dissenso interno, ma di fatto bisogna sempre comunque cercare dei motivi di frammentazione della società, e quindi le differenze, appartenenze comunitarie, confessionali, hanno costituito il grimaldello utile ai vari governi, ai vari regimi. Ecco, questa è la premessa necessaria, sì. Storica, perché sennò certo. Sembra che tutto cala dal cielo nel 2011 e ci troviamo oggi di fronte a una guerra civile e di cui ieri non si sapeva nulla. Quindi, diciamo, la tensione confessionale interna alla Siria esisteva anche ben da prima, ma era una tensione che veniva comunque ricomposta, perché ci sono stati per tanti anni di storia, ci sono stati di altri elementi che hanno partecipato alla ricomposizione o comunque hanno equilibrato in parte le divisioni confessionali. Mi riferisco alle alleanze per esempio economiche tra comunità confessionali diverse, ma che si trovavano a gestire poteri o territori condivisi. Quindi nella storia siriana, anche più recente, è difficile parlare di una divisione fra sciiti e sunniti così netta. Poi qui entriamo più nel vivo della questione politica. In Siria gli alawiti sono una minoranza. All'interno di questa minoranza alcuni clan importanti hanno preso il potere negli anni 60-70 e oggi, fino ad oggi, hanno governato. Quindi alcuni clan di una minoranza che è già una minoranza all'interno dello scismo, perché gli alawiti sono una branca dello scismo. Tra l'altro la loro appartenenza all'Islam è stata ufficializzata dai vari sheikh e dai vari imam soltanto nel 1973, in epoca recentissima, sì. Ovviamente facciamo un discorso storico più ampio. Quindi anche parlare di alawiti come sciiti è una questione un po', insomma, è un dibattito secolare che va avanti da molto tempo, se gli alawiti effettivamente siano addirittura musulmani. Ecco, Lorenzo, però il regime sciita alawita di Assad aveva la capacità di gestire le minoranze. In questo senso, e poi chiedo anche l'opinione alla professoressa Van Zan, è possibile, come dire, tratteggiare il potere sciita come più tollerante, o è, come dire, una fotografia assolutamente sbagliata e relativa solo alla Siria? Lorenzo. Ma no, assolutamente. Innanzitutto non lo definirei un potere sciita, nel senso, come dicevo prima, sono dei clan al potere, sono alcune famiglie, anzi due o tre famiglie che si sono unite al potere. La loro identificazione con lo sciismo, ma anche con l'alawismo in quanto tale, è completamente erronea. Non è che in Italia la mafia domina perché sono dei cattolici, sarebbe come dire che in Sicilia per anni ha dominato un regime cattolico perché la mafia vive in un ambiente apparentemente cattolico. No, sono dei poteri familiari, mafiosi e oligarchici, che nulla hanno a che fare con il culto e la pratica di una confessione o una lettura confessionale del potere. Quindi non possiamo identificare il potere con gli alawiti, perché ci sono tantissimi alawiti che non hanno beneficiato di questo potere, e tanto più non possiamo parlare di sciiti, perché appunto lo sciismo è una galassia così vasta e frammentata che davvero sarebbe una banalizzazione, una forzatura. È chiarissimo. Però all'interno di questa, per rispondere alla domanda, sì, all'interno, visto che si tratta di una minoranza della minoranza, è ovvio che hanno cercato in questi decenni, per governare, per proteggersi dalla maggioranza di una popolazione, hanno cercato le alleanze nelle minoranze. In questo senso hanno aperto alle altre minoranze, ai drusi, ai cristiani, agli ismailiti, sì. E dal nostro punto di vista sono stati più tolleranti, perché non gli hanno sgozzato la gola, ma no, anche qui non è una questione di tolleranza, è questione di cercare alleanze politiche. Ecco perché, come sostengo, la lettura confessionale della politica mediorientale vale se letta in un contesto storico, ma sta sotto sullo sfondo, non è prioritaria. La questione, per esempio, perché l'Iran sciita, Dude Cimano, si allea con gli al-Assad, anche loro alawiti e quindi sciiti? No, sì. Non si allea perché in quanto sono famiglie dello sciismo, si allea perché hanno una serie di interessi convergenti, di strategia. Hamas è sunnita, per anni è stato nell'asse della resistenza insieme a Hezbollah, l'Iran Dude Cimano e gli al-Assad alawiti sciiti, ma appunto sono delle categorie che secondo me sono fuorvianti. Insomma, lei dice, la politica. Lorenzo dice, insomma, la lettura attraverso appunto la lente della religione non solo a volte falsa, ma non consente di leggere quelle che sono le dinamiche sottostanti. Per capire le dinamiche della Siria, fra l'altro, è di prossima uscita un tuo libro per Mondadori, Siria dagli ottomani agli Assad e oltre, e vedremo anche l'oltre quale sarà, Lorenzo. Ma certo, il tentativo ambizioso, anche un po' forse difficile da portare a termine, è quello di dare uno strumento al lettore, uno strumento che sia prevenuto basato sulla storia, per decifrare le costanti della storia di ieri, ma anche per quindi proiettarsi nella Siria di domani. Nonostante il regime formalmente sia ancora in piedi, sì, ci siano ancora, insomma, la storia è ancora molto lunga, però è possibile già oggi, dal terreno emergono delle indicazioni per, grazie appunto allo studio e alla lettura della storia degli ultimi 150 anni della Siria, cercare di vedere quali potranno essere le dinamiche di domani, ma anche di dopodomani. Grazie. Allora, Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA, analista per l'IMES, e buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Nessun luogo è lontano. Professoressa Van Zan, volevo riallargare il discorso. Grazie a Lorenzo Trombetta da Beirut, come dire, la lente religiosa sta diventando, come dire, un po' più evanescente, un po' più sottile. È anche vero una cosa, che se guardiamo alla storia degli ultimi 20-30 anni, dal punto di vista, come dire, delle cronache, l'estremismo mi sembra più di marca sunnita, però mi corregga se sbaglio. Al-Qaeda nel Maghreb islamico, solo per citare alcune delle formazioni, sono tutte sunnite. Ma direi che purtroppo, se noi guardiamo la storia, le colpe sono quasi equamente divise fra i vari gruppi. Certamente, come dicevo prima, adesso nelle ultime decadi c'è un progetto generale, soprattutto dei paesi produttori di petrolio del Golfo, di allearsi appunto in funzione anti-sciita, leggi anti-Iran, e quindi sono tutti pronti a finanziare gruppi terroristi. Ricordiamo comunque che l'Arabia Saudita e gli Emirati avevano finanziato Saddam durante la guerra contro l'Iran dei primi anni Ottanta, ma anche adesso effettivamente le potenze del Golfo, con la loro propaganda anti-occidentale, anticristiana, anti-ebraica e quant'altro, stanno effettivamente aiutando lo sviluppo di dottrine come quelle jihadiste, salafiste, il wahabismo, che peraltro è di casa in Arabia Saudita, e ovviamente anche il terrorismo, perché poi tutti questi gruppi appunto perseguono le loro politiche appunto tramite atti terroristici. Un esempio eclatante è proprio quello che si vive in Iraq in questo periodo, dove appunto si sono infiltrati gruppi di Al-Qaeda per aiutare i sunniti locali a reagire appunto contro adesso la schiacciante maggioranza sciita. Quindi direi che dal punto di vista dell'incoraggiamento, diciamo, ad atti di violenza, sono colpevoli tutti. E tra l'altro in questo giudizio inserisco anche molti predicatori. Ci sono dei predicatori sia in ambito sunnita che in ambito sciita che remano contro la pace. E per esempio in ambito sunnita il famosissimo predicatore egiziano, ma residente in Qatar da molti anni, Yusuf al-Fardawi, che appunto con i suoi discorsi infiamma i sunniti contro i sciiti. Da parte sciita invece abbiamo l'ayatollah Ahmad Jannati, che appunto fa la stessa cosa. Ci sono anche delle voci di saggezza. Per esempio il leader sciita Bahashti, che sta a Karachi, città tra l'altro che è stata già teatro in passato di scontri violenti fra sunniti e sciiti, e che adesso purtroppo in questa ondata che sta colpendo il subcontinente è di nuovo protagonista negativa in questo senso, ha ricordato anche l'altro giorno che in realtà l'Islam proibisce ai musulmani di combattere contro altri musulmani. Ovviamente è un dettame che ha circa 1400 anni di vita, ma che è stato per lo più disatteso durante il corso dei secoli. Infatti, se noi guardiamo anche nella cosiddetta guerra al terrore di questi ultimi 11 anni dopo il famoso 9-11, in realtà il maggior numero di vittime è fra i musulmani, quindi purtroppo vi è la tendenza a acutizzare il conflitto in seno alla comunità islamica. Sì. Professoressa Manzan, l'ultima domanda, e le chiedo una risposta telegrafica. Tra le due correnti è possibile individuare una maggiore inclinazione alla secolarizzazione, cioè a intraprendere un percorso di laicità che forse potrebbe smussare, no, certi attoni accesi che poi, portati alle estreme conseguenze, portano alla lotta armata, eccetera? Cioè, secondo lei, una delle due correnti può essere più secolarizzata dell'altra? Secondo me no, non si tratta di correnti, si tratta di persone che si muovono nell'ambito di queste due correnti, perché appunto noi, se guardiamo il percorso storico dei due gruppi, ma anche la realtà attuale, contemporanea sotto i nostri occhi, non possiamo certamente dire che i fratelli musulmani che sono sunniti e che ora sono al potere in Egitto siano, come dire, più tendenti alla secolarizzazione rispetto al regime di Teheran che è uscita. Direi che si tratta anche di opportunità politiche, di gioco, di alleanze, quindi non è assolutamente un discorso fra le due sette, ma un discorso, ripeto, fra gli attori delle due sette. Grazie alla professoressa Anna Vanzan, docente di cultura araba all'Università degli Studi di Milano. Buona serata, buon lavoro. Buona serata a tutti voi. E in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo cercando di capire meglio chi sono i sunniti, chi sono gli sciiti, come sono distribuiti nel mondo, quanto le dinamiche fra le due correnti condizionino vita sociale, economica e politica nel nostro mondo, è venuto il momento di guardare in casa nostra, in Italia. E lo facciamo col professor Stefano Allievi, docente di sociologia all'Università di Padova, esperto di Islam. Professor Allievi, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Allora, professore, quanto la diaspora musulmana in casa nostra riflette le due componenti, sunniti e sciiti? Cioè, cosa vediamo noi delle due correnti guardando agli immigrati in Italia? In realtà vediamo molto poco, perché la componente sciita di fatto è invisibile alla percezione anche dei media, dei giornali, degli studi, della politica stessa. È certo che è una componente fortemente minoritaria, perché la presenza sciita di fatto include un po' di iraniani, qualche libanese, molto pochi, qualche siriano, e è un nucleo molto attivo peraltro di convertiti europei, uomini e donne, che ha un ruolo abbastanza incisivo, poco conosciuto ma abbastanza incisivo, perché sono molto attivi poi nelle riviste, nei siti web, nelle traduzioni di testi di leader sciiti, sia contemporanei sia del passato, e qualcuno di loro è anche uno studioso affermato. Ecco, professore, perché la corrente sciita risulta, dalle sue parole, più attraente forse di quella sunnita per gli europei? C'è qualche componente dell'Islam che in questo senso lo rende più masticabile, lo rende più attraente? Non direi più attraente, perché comunque abbiamo una significativa presenza di convertiti all'Islam sunnita, però c'è un mondo anche un po' particolare, quello del tradizionalismo metafisico, filosofico e religioso, quello degli studiosi di René Guénon piuttosto che di altri appunto pensatori di questo mondo, che hanno trovato nella Scia una sorta di mondo anche gerarchico, di società sacrale in qualche modo, che li ha attratti significativamente, o meno li ha attratti in una fase storica molto precisa, che era quella della rivoluzione comunista. Ho la sensazione che l'attrattiva sia largamente calata negli ultimi anni, ma nel momento in cui era in qualche modo vincente sulla cresta dell'onda, rappresentava un ordine sacrale che aveva vinto anche nel secolo, diciamo così, che si presentava come vincente, e soprattutto se ne conoscevano ancora poco allora gli aspetti negativi che sono emersi oggi, insomma, negli ultimi anni. Quindi il clero sciita nella figura di Khomeini poteva rappresentare una sorta di modello di un santo che diventa capo politico. Col clero sciita attuale, diciamo, il miracolo non si ripete. Sì. Professor Allievi, l'ultimissima domanda, la prego di essere telegrafico su questa risposta. Secondo lei, sunniti e sciiti hanno un diverso approccio rispetto a quello che è in generale il mondo europeo, il mondo occidentale e quindi anche l'Italia? Esiste, cioè, una maggiore o minore apertura, una maggiore o minore chiusura? Di fatto no, non ci sono differenze significative, anche perché gli sciiti non hanno un tessuto di moschee molto ampio come quello dei sunniti, per cui spesso i musulmani sciiti, che sono pochi in una singola città, vanno a pregare nelle moschee sunnite e si ritrovano con gli altri musulmani sunniti, per cui non vedrai diversità radicali. C'erano forse all'inizio, ai tempi appunto di Khomeini. Grazie allora, professor Stefano Allievi, per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Buona serata, grazie. E non mi resta quindi che ringraziare Alice Cosilli, Laura Faggini in redazione, Gianmarco Ferronato che ha dato musica e ritmo a questa puntata, voi gentili ascoltatori per essere stati con noi. L'appuntamento è sabato prossimo, ore 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.